E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La vita in un film di Franco D'Assisi. Devo andare alle terme, mi devo disinfettare i fanghi, perché mia madre non vuole venire. Che faccio, la lascio a casa da solo? Tu la lasceresti da solo a tua madre? Ti capisco, no? Certo. Senti, me la puoi tenere qua 2 giorni? No, mi dispiace. Io no, non è per cosa, io la zia... Zia, no, non me la sento. Ma dove la porti il 15 d'agosto, Gianni? Non ho capito, la lascio da solo. Ma non si fa. Io non me la sento proprio umanamente, capito? Se la porta alla stazione, che devo fare? Io te devo chiedere una cosa, Gianni. Io ho la badante rumena di mia madre che è tornata in Romania. E stanotte ho la notte in ospedale. Me dovresti tenere mia madre. Per stanotte. Te prego. Buonasera da Franco D'Assisi, le clip, non le immagini, perché in radio quelle ancora non riusciamo a farvele vedere, ma insomma le clip che avete ascoltato sono tratte da Pranzo di Ferragosto, straordinario film che ha inaugurato quasi un anno fa, esattamente di questi tempi, la stagione cinematografica 2008-2009, ed è stato uno dei miracoli del cinema italiano dello scorso anno. Parliamo di Terza Età in questa puntata della vita in un film, ma lo facciamo con un taglio che è quello del non è mai troppo tardi, insomma, del non arrendersi mai, di una terza età che non si vuole piangere addosso e che anzi nel cinema molte volte è stata raccontata come una terza età capace di prendere iniziative, di rivivere la vita in maniera molto molto intensa. Chissà se è solo roba da film, probabilmente no. E questo lo chiediamo a voi all'800 24 00 24 per chiedere se avete visto qualche vostro parente, qualche vostro conoscente in là con gli anni, se lo avete rivisto più che altro dentro un personaggio di un film. Ce ne sono tanti appunto che hanno raccontato in questo modo la voglia di vivere la vita fino in fondo della terza età. Noi li abbiamo chiamati i turbovecchietti, tanto per così poter coniare un aggettivo, ma ecco, la vita in un film oggi racconta questo, vuole così chiedervi se vi siete identificati e se avete visto in questo caso qualcuno che conoscete in un atteggiamento, in una frase, in un gesto, in un comportamento appunto di un anziano in un film. Pranzo di Ferragosto, dicevo, è il film che abbiamo voluto scegliere perché si comincia, come avete sentito, con questi amici che arrivano dal povero Gianni, un uomo intorno alla sessantina che vive con la madre molto anziana in questa casa, in una Roma assolata d'agosto. Non ci sono amici e non ci sono altri svaghi per questo Ferragosto, e così pian pianino questo fatto, tanto tu ti fermi a casa, tanto tu hai la mamma anziana e non te ne vai, diventa il catalizzatore di una serie di altri vecchietti che arrivano e vengono parcheggiati, fra virgolette, nella casa di Gianni, che si fa sempre più piccola, dove Gianni va in minoranza molto presto. La sua mitezza, tra l'altro, aiuta in questo senso. Le persone, le donne, soprattutto anziane, che arrivano, cominciano a fare comunella fra di loro, superando qualsiasi tipo di ostacolo, di barriera, di provenienza geografica o culturale, e diventano una vera e propria potenza, diventano loro le protagoniste di questo Ferragosto che culminerà infatti in questo pranzo, ma si andrà anche oltre. E allora questo è un po' il racconto di Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio, che è nostro ospite in questa puntata della vita in un film. Io vi ricordo il nostro numero di telefono 800 24 00 24 per raccontarci appunto se avete avuto la possibilità, visto, rivisto qualche vostro parente, qualche anziano che conoscete, qualche gesto familiare in un film che racconta appunto la terza età. Vi ricordo anche che i primi 3 ascoltatori che interverranno in trasmissione avranno a disposizione numerosi biglietti per il cinema, per vivere l'emozione del grande schermo durante la prossima stagione cinematografica. 800 24 00 24, c'è anche la possibilità di mandare sms al 349 238 6666. Io comincerei con l'ascoltare appunto il nostro ospite Gianni Di Gregorio. Il cinema ha raccontato la terza età in tanti modi, ma come è nata l'idea di dare questo taglio al film? Ma guarda, e questa è una domanda che è molto interessante. Adesso mi viene in mente qualcosa che ti posso dire che non avevo mai messo a fuoco prima. Praticamente credo che sia stata la personalità di mia madre, che nella realtà poi io ho vissuto con lei per 10 anni, e c'era tutta la vulnerabilità appunto della terza, quarta età, se vogliamo, ma c'era anche una forza vitale tale che ho pensato di mettere, di parlare anche di quella, perché sovrastava anche gli elementi negativi della vecchiaia. Quindi nelle sue, nei suoi difetti, anche mia madre, appunto, che era dispotica, aveva una sua generosità vitale, mi faceva anche molto spesso ridere, combinava delle cose con le amiche, per cui io ho visto proprio la determinazione, l'amore per la vita, la presenza ancora delle passioni, delle gelosie, e quindi questo mi ha portato a pensare il film così, in questa chiave. Gianni Di Gregorio, che ascolteremo ancora fra poco, e noi torniamo a raccontare il film attraverso le sue clip audio. Ricordo il numero di telefono 800 24 00 24, il nostro centralino è aperto per partecipare alla Vita in un film e ricevere in cambio i primi tre ascoltatori che chiameranno appunto biglietti per andare al cinema. E allora dicevamo, le tre vecchiette arzille, molto arzille, si scoprirà, più arzille in casa di Gianni che non in casa loro, questa è un altro tratto abbastanza interessante dell'anziano. Ebbene, vengono lasciate a casa di Gianni, che cerca di arrabattarsi, esce a fare la spesa in questa Roma di Ferragosto, e poi andiamo a conoscerle, cominciando dalla madre, che accetta di ottimo grado tutta questa gioventù che arriva in casa. Sentiamo. Sono venuta qua perché mi serve sapere dove sta la tovaglia per fare il pranzo di Ferragosto. Dobbiamo fare una cosa un po' più particolare. Ma quale pranzo, mamma? Oggi, il pranzo di oggi Ferragosto. Oggi è il giorno. No. Oggi che? Oggi le signore vanno. No, ci sono dei cambiamenti, senti. Restano. Ma non c'è niente da mangiare. Io non c'ho quattro uova. Va bene. L'insalatina, non c'è niente. Si accontentano di tutto, va bene anche le quattro uova, l'importante è stare in compagnia, questo è un po' il senso. Gianni all'inizio non la pensa così, ma insomma deve fare buon viso a cattivo gioco e andare avanti. Sentiremo adesso come sono fatte, proprio in termini anche caratteriali, le amiche che arrivano, ma abbiamo già una prima telefonata all'800 24 00 24, pronto? Pronto? Sì, pronto. Marica o Marica? Marica da Udine, buonasera. Buonasera, io volevo raccontare, come dicevo prima, all'operatrice, quello che a cui ho partecipato di recente, una classica ma vincente partita bocce. Beh, c'erano persone anziane, io ho 31 anni, questi erano tra i 70 e gli 80 forse. Beh, però questa partita bocce faceva un baffo ai più accesi derby calcistici di provincia. C'era proprio una vivacità, un'allegria, uno stare insieme anche molto colorito, che veramente ha lasciato a bocca aperta noi giovani incapaci, insomma, molte volte. Marine. Fa vedere. Pietà di me, Marine. Via verità. Non sei stanco. Sono stanco, morto, crollato. Sì. Fingi di essere stanco. No, non fingo affatto. Guarda, adesso si vede dall'occhietto. No. C'hai un occhietto furbo, ma furbo. Marini, ti vado a fare la camomilla. Dove? Per te. A me la camomilla. A quest'età la camomilla. E questa era Marina, una delle arzille vecchiette che arrivano nella casa di Gianni. Avete visto, qui c'è un approccio addirittura, un tentativo di carattere sessuale. Camomilla a chi, insomma, sembra dire Marina. Qui si vuole divertimento e, come vedremo, le cose andranno proprio così. Marina avrà poi la sua fuitina da casa. Siamo in collegamento all'800 24 00 24 con un altro ascoltatore, Manuel dalla provincia di Monza. Buonasera Manuel. Buonasera a tutti. Allora, in quale film ha rivisto un po' di questa vecchiaia arzilla? L'ultimo ancora una volta, Non è mai troppo tardi. Ah, fantastico. Sì, con Jack Nicholson e Morgan Freeman. Morgan Freeman, sì, è un bellissimo film, tra l'altro. E praticamente i due che ringiovaniscono tutto un tratto per rivivere, di fare tutte le cose che non hanno mai fatto prima. Esempio di Morgan Freeman con Jack Nicholson, che gli fa esaudire praticamente tutti i suoi desideri, se loro vanno a scalare, cercano di scalare la montagna, si buttano con paracadute, insomma ritornano come se tornassero un po' indietro nel tempo. Lì c'è tra l'altro un elemento che è quello della malattia, perché i due protagonisti si trovano e si conoscono in due letti d'ospedale, uno di fianco all'altro. Jack Nicholson è un ricchissimo proprietario di cliniche, tra l'altro anche di quell'ospedale, e invece Morgan Freeman è un meccanico che ha lavorato tutta la vita. Insomma, due estrazioni sociali totalmente diverse, ma scatta, Manuel, proprio quell'alchimia, cioè quella voglia di dire adesso facciamo tutto quello che vogliamo. Sì, infatti è stato anche bello perché proprio all'inizio quasi lui lo odiavano praticamente. Il fatto che c'era lui, Jack Nicholson, che quasi non voleva neanche parlargli all'inizio. Poi dopo alla fine invece si trovano che diventano amici anche... in maniera incredibile poi. Allora Manuel, noi siamo riusciti nel frattempo, mentre lei parlava, a recuperare una clip audio proprio di Non è mai troppo tardi. Lei ha due biglietti per andare al cinema durante la prossima stagione, quindi questo così è un augurio di buona visione. Sentiamo Non è mai troppo tardi. Il professore di filosofia ci assegnò questo esercizio e lo chiamò la lista del capolinea. Una lista di tutte le cose che avremmo voluto fare nella vita prima di... Tirare le cuoia. Sì. Bella idea. Sì, ma è inutile adesso. Noi possiamo attuarla. Dobbiamo attuarla. Questa sì che è vita! Io vi odio con tutto il cuore! Ma cos'è, pazzo? Dipende. Vuoi guidarla o comprarle un vestito? Sto facendo la sua conoscenza. Io non capisco come puoi andartene via con uno sconosciuto. Ho passato 45 anni sotto i cofani delle macchine. Credo di meritarmi un po' di tempo per me. E tua figlia? Non la frequento. Devi farlo. E questo era Non è mai troppo tardi, dicevamo, con differenze sociali e anche di ceto proprio in questo caso, che vengono annullate quando queste persone vengono a contatto. Succede così anche proprio in Pranzo di Ferragosto. E allora su questo tema, cioè su questo annullamento delle differenze nel momento in cui la terza età si ritrova insieme, sentiamo ancora Gianni Di Gregorio. È vero, sì, perché evidentemente c'è una perdita proprio delle sovrastrutture. In qualche modo ho notato forse che verso una certa età si cominciano a dire le cose molto più sinceramente, in qualche maniera, e quindi c'è forse anche una sincerità nel rapporto, no? Uno ne ha viste tante nella vita, e forse no, questa è una cosa molto interessante. Penso anch'io che cadano proprio delle sovrastrutture culturali, e c'è proprio un rapporto diretto, è vero, come i bambini. 800 24 00 24, la vita in un film, non è mai troppo tardi, non mollare mai, o insomma il motto coniatelo voi, però il tema è questa terza età che non si arrende, che vuole continuare a vivere davvero fino in fondo. C'è in linea Fabio da Savona, buonasera. Ciao, buonasera, mi ricordo forse di... abbiamo problemi con la linea, Fabio. Proviamo magari a richiamare Fabio perché il cellulare faceva un po' le bizze. Noi intanto, in attesa di stabilire il collegamento con questo e con altri ascoltatori, vi ricordo anche il numero per gli SMS 349-238-6666. Andiamo avanti con Gianni Di Gregorio. Dicevamo, l'abbiamo anche coniato, non mollare mai. Il film è forse proprio un incitamento a non mollare, perché in un certo senso la terza età ci regala un'enorme libertà che prescinde appunto dallo stato fisico. Gianni Di Gregorio. Infatti io ho notato proprio persone molto grandi d'età che mi hanno detto: ho la libertà di poter dire la mia finalmente, nel senso che non c'è più la paura di qualcosa. C'è come un diritto proprio alla libertà, alla propria appunto identità, no? E questo io l'ho trovato molto, molto bello. E anche il rapporto fra le signore nel film, credo che valesse quella cosa che hai detto, cioè questa unione spontanea, no? Perché anch'io all'inizio ero un po' preoccupato, non sapevo poi alla fine come andava a finire, se c'era una relazione immediata fra queste signore così diverse che non si conoscevano. E invece è andata esattamente come tu hai detto, c'è stata proprio una corrente fra loro che andava al di là delle forme generali, una certa libertà. E la libertà, io sì, è un incoraggiamento, io l'ho vista in queste signore una grande voglia di libertà, una grande forza. E abbiamo ripescato all'800 24 0024 Fabio da Savona. Fabio? Ci sentiamo bene. Adesso molto meglio. Grazie. Prego. Mi ricordo Bianco, Rosso e Verdone, con il nipote che non riusciva a fare un'iniezione alla nonna, diciamo, no? Sì, assolutamente. E poi ha trovato il camionista che sapeva fare tutto. Poi c'era un rapporto di odio e di amore con la nonna, dove lasciargli il casale, no? Ti ricordi? Certo, certo, assolutamente. Beh, film indimenticabile quello. Da ridere, penso, più bel film di Verdone, anche molto triste. Che poi ti ricordi come finisce quel film lì? E vanno alle lezioni, la porta su, si fa commedia dal militare e poi finisce. Mamma, una meraviglia. Ecco, proprio. Fabio, ma la figura dell'anziano ancora in gamba, ancora voglioso di vivere, ecco, la ricordi anche in qualche altro film? La ricordo in casa mia questa cosa. Questa... Mio papà me la ricordo veramente, purtroppo è stato preso da una malattia di quelle che non ti perdonano, però mi ricordo la voglia di arrivare fino all'ultimo momento e poi di non farcela più. Fabio, grazie per aver chiamato qui alla Vita in un Film. Anche per te ci sono due biglietti per il cinema, per una serie di sale davvero molto molto grande, quindi, come direi, proprio l'imbarazzo della scelta per la prossima stagione. 800 24 00 24 il numero verde per chiamare, partecipare alla Vita in un Film. Stiamo parlando di Turbo Vecchietti, li abbiamo chiamati così, insomma, di quella terza età che non vuole arrendersi, e abbiamo una clip di un film di qualche stagione fa davvero molto divertente, si intitolava Tutto può succedere, con Jack Nicholson. Anche in questo caso Jack Nicholson evidentemente nella sua terza età ha avuto e sta avendo ruoli che sono consoni evidentemente anche alla sua carta d'identità. Di fianco c'era una Diane Keaton ancora davvero molto bella e affascinante. E beh, succedeva qualcosa fra i due, sentiamo. Che labbra morbide. Sono così contenta che funzionino ancora. Non le usavo per baciare da tanto di quel tempo. Le usavo più che altro per metterci il rossetto e per fischiare. Bene, bene. A quanto pare c'è qualcos'altro che funziona. E non hai neanche preso il Viagra? Baciami prima che decida di andare via. Usi qualche precauzione. Menopausa. Accidenti, che fortuna. Oddio. Allora è così che si passa un pomeriggio piovoso, eh? Io che credevo di aver chiuso per sempre. Non me l'aspettavo. In questa missione di Diane Keaton c'è proprio la chiave di quello che stiamo raccontando. Credevo di avere chiuso per sempre, non me l'aspettavo. E perché non aspettarselo invece? Paolo da Pavia, all'800 24 00 24. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Quale film? Il pranzo di Babette. Quindi un altro pranzo anche in questo caso. È anche un altro una lunga preparazione però... di questo pranzo mitico. Insomma. Sì, decisamente mitico, talmente sontuoso da risvegliare in questi vecchietti qualche cosa di straordinario, un'energia e una vitalità straordinarie, che ho la fortuna di vedere e di constatare di persona, perché sono circondato da alcuni familiari, i quali, avendo i parenti sparsi un po' per, diciamo, l'Europa, pur di trovarsi a fare questo, tra virgolette, pranzo di Babette, ogni anno non lesinano, alla veneranda età di 86, 88, 80 anni, di farsi migliaia di chilometri, chi arriva da Londra, chi arriva dalla Svizzera, chi arriva da Pavia, perché no, e si trovano vicino a Pescara per stare poche ore insieme e fare un pranzo, ma... non so, ha un che di vitalità anche quello, e di così tenero, di così cosa, che mi sembrava giusto segnalarlo come un qualche cosa di molto bello da ricordare, ecco. Grazie Paolo per il suo contributo. Effettivamente Il pranzo di Babette è un altro di quei film che hanno segnato la chiave di cui parliamo questa sera. In altri calici alla nostra bella amicizia di Ferragosto. Cin cin vai Vicky. Viva noi, Viva noi, questo è il brindisi di Pranzo di Ferragosto. Noi ci avviciniamo alla chiusura del nostro programma, ma prima, come sempre, facciamo esprimere Gianni Di Gregorio, il nostro ospite di questa serata. Qual è il film in cui ha rivisto un pezzo della sua vita, Gianni Di Gregorio? Certamente in tanti film, e in qualche modo mi viene per dirti la prima sensazione, in molti anche film molto belli della commedia dell'italiana, in certi personaggi di sordi, e in qualche modo ho detto lì, sordi, che poi ha rappresentato la gran parte degli italiani, lì mi sentivo proprio identificato con questa proprio con la sua natura, con la sua personalità. Tantissime volte mi è successo questo, soprattutto in quei film della commedia all'italiana. Proprio lì senti che c'è una parte di te, quello sguardo che potresti averlo dato tu. Mi viene lui. E lì c'è stata un'identificazione in tantissime sequenze. Ero io. Grazie a Gianni Di Gregorio, ospite di questa puntata della Vita in un Film, che si chiude grazie a Valeria Coffaro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. L'appuntamento domani alle 18, parleremo questa volta di giovani, Generazione 1000 Euro. A domani.